L'umiliazione è il massimo stato di prostrazione che l'uomo possa provare. Proprio per questo, a nessuno piace essere umiliato. Proprio a nessuno. Per istinto, ognuno di noi cerca di evitare questa esperienza. Ma per quanto si cerchi di eludere una simile situazione, si è umiliati. L'umiliazione prende forme diverse. A volte si è derisi, vilipesi, insultati, mortificati o offesi. Situazioni non uguali, ma molto simili, e che hanno un punto in comune, una mancanza, che può essere relativa alle necessità fisiche, morali e spirituali. La persona si trova in una situazione di indigenza morale, se viene schernita, di indigenza fisica, se si trova in estrema povertà, di indigenza spirituale, se è costretta a rivolgersi ad una divinità a lui ignota. Contrariamente a quanto si pensa e a quanto si predica, il Dio delle Scritture, oltre ad essere un Dio di amore, giusto, santo, è anche un Dio che umilia. Troviamo questo aspetto in modo particolare in un brano della Scrittura riferito al popolo di Israele, che sarà oggetto del nostro studio. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate e moltiplichiate ed entriate ad occupare il paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore, e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque nel tuo cuore che, come un uomo corregge suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te. Perciò osserva i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, camminando nelle sue vie temendolo, perché l'Eterno, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese. Un paese di corsi d'acqua, di fonti e di sorgenti che sgorgano dalle valli e dai monti. Un paese di frumento e di orzo, di vigne e di fichi e di melograni. Un paese di ulivi da olio e di miele. Un paese dove mangerai pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Un paese dove le pietre sono ferro e dei cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai l'Eterno, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti ha dato. Guardati bene dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti e i suoi statuti che oggi ti do. Perché non avvenga, dopo aver mangiato a sazietà e aver costruito e abitato belle case, dopo aver visto le tue mandrie e le tue greggi moltiplicare, e il tuo argento e il tuo oro aumentare, e tutti i tuoi beni crescere, che il tuo cuore si innalzi, e tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel In questo brano, l'Eterno afferma per 3 volte di aver umiliato il popolo, e non a caso. Ogni volta che lo dice, egli sta insegnando qualcosa di molto importante. L'Eterno inizia dicendo di aver condotto il suo popolo nel deserto con lo scopo di umiliarlo. Dunque, che il popolo di Israele abbia camminato nel deserto per 40 anni non è stato un caso. Vivere in un deserto significa fame, sete, polvere, sole cocente, implacabile. È vero che il popolo aveva la manna, la nuvola di giorno per proteggerli dal caldo, la colonna di fuoco di notte per guidarli, ma erano comunque interventi straordinari, non facenti parte della vita ordinaria. E così è anche per la nostra vita. A volte ci troviamo in situazioni aride, senza sbocco, dove la luce della fine del tunnel rimane molto lontana e pare che non si riesca a scorgerla. Perché queste situazioni? L'Eterno Dio risponde, per metterti alla prova, per sapere quello che hai nel cuore. Non credo nel modo più assoluto che il Dio onnisciente abbia bisogno di umiliare per essere in grado di sapere ciò che ci è nel cuore di una persona, ma piuttosto siamo noi che abbiamo bisogno di essere umiliati per renderci conto di quali sono i veri valori che abbiamo nel nostro intimo. È solo sotto sforzo che possiamo conoscere la resistenza di una trave. È solo sotto sforzo che il medico conosce la salute del nostro cuore. Ogni cosa, ogni persona, lasciata nel suo stato normale, non rivela le sue qualità negative. Una situazione umiliante ha la capacità di sradicare e sondare le profondità dei nostri sentimenti e di metterli in luce. Esistono umiliazioni che rivelano meglio di qualsiasi altro momento quello che è insito nel più profondo di noi stessi. A volte è la stessa persona ad essere stupita di certe reazioni perché evidentemente non aveva avuto occasione di mostrare il suo vero carattere non essendosi mai trovata in quella indigenza. Proprio per questo motivo è bene essere cauti nel dichiarare di conoscere qualcuno come, per usare un'immagine biblica, è stato per il popolo di Moab. Moab è stato tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposando sulle sue fecce, e non è stato travasato da vaso a vaso, né andato in cattività. Per questo gli è rimasto il suo sapore e il suo profumo non si è alterato. Geremia 48:11. Solo un vaso rotto rivela il suo vero contenuto. L'umiliazione è uno strumento nelle mani di Dio per farci capire e realizzare che anche la nostra esistenza dipende non solo dal pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Una simile espressione va compresa. Dio aveva condotto il popolo di Israele in situazioni difficili e impossibili per insegnargli che se era ancora in vita ciò non era solo perché ha fatto ciò che doveva fare, ma anche perché era il suo volere. La nostra esistenza quindi non dipende solo dalla cura che abbiamo di noi, ma anche dal volere di Dio. Una situazione impossibile non fa altro che rendere possibile l'evidenza della sovranità di Dio. Come tanti altri automobilisti, ho avuto un incidente che poteva essere mortale, ma ne sono uscito illeso. Senza contare tutte le volte che, come si dice, per miracolo, non mi è successo nulla. Sul lavoro potevo perdere un occhio o una mano, ma non mi è successo nulla. Un'altra volta mi è caduto di fianco un pezzo di ferro che ha fatto un buco sul pavimento. Forse pochissimi di noi sono coscienti della fragilità della vita e che ad ogni istante è possibile che capiti qualcosa di mortale, eppure viviamo come se fossimo noi a gestire la vita, come se noi fossimo i padroni delle situazioni. Certo, un credente non sostiene di essere il padrone della vita e delle situazioni, ma le tensioni, lo sdegno e il rancore che nutrono i figli di Dio verso alcune circostanze mostrano che si sentono offesi perché i loro progetti, le loro ambizioni non si sono realizzate. Ed ecco che allora Dio conduce i suoi figli nel deserto, umiliandoli perché si rendano conto che la loro vita, le situazioni favorevoli in cui si trovano, non sono solo il risultato del loro impegno, ma anche della concessione da parte di Dio di ciò che chiedono. Ho ancora viva la testimonianza di un imprenditore che aveva conosciuto l'Evangelo, ma che per 20 anni lo aveva rifiutato. Un giorno si trovò in un letto di ospedale con un tumore e che in seguito alla conversione sparì e testimoniò con le parole del salmista. Nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. Eterno, per il tuo favore, avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti la tua faccia e io rimasi smarrito. Io ho gridato a te, o Eterno, ho supplicato l'Eterno, dicendo, che utilità avrai dal mio sangue se scendo nella fossa? Potrà forse la polvere celebrarti? Potrà essa proclamare la tua verità? Ascolta, o Eterno, e abbi pietà di me, o Eterno, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio lamento in danza, hai rimosso il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, affinché la mia anima possa cantare gloria a te senza posa. O Eterno, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Salmo 30:6-12. Quest'imprenditore si era solo reso conto che se il suo monte era reso forte, era per la benignità dell'Eterno. L'umiliazione aveva prodotto il suo benefico effetto. Un'altra ragione per cui Dio ci umilia è per farci del bene. Questo aspetto non è facile da comprendere né facile da accettare. Eppure è detto da Dio come ogni altra parola è vera pure questa. Perciò la cosa saggia da fare per chi teme Dio sarà quella di trovare il positivo in ogni situazione negativa e umiliante. Iniziamo questa lezione esaminando la storia di Israele. Il popolo di Dio ha sofferto come poche altre nazioni. Per più di 400 anni è stato umiliato profondamente dagli egiziani, i quali su di loro avevano potere di vita e di morte. Se non fosse stato per un intervento miracoloso dell'Eterno, l'Egitto sarebbe stato la loro tomba. Come se ciò non bastasse, per 40 anni hanno vagato in un deserto, avendo la morte che li seguiva come la loro ombra. Ma nonostante tutto, scriverà Mosè in forma poetica, egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine desolata e squallida. Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come un'aquila incita la sua nidiata, si libra sopra i suoi piccoli, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle sue ali. L'Eterno lo guidò da solo, e non c'era con lui alcun dio straniero. Deuteronomio 32, 10-12. Questa esperienza fu talmente profonda che in seguito i profeti, Gesù stesso e gli apostoli, ricordarono questi episodi come atti d'amore di Dio. Così è pure delle nostre esperienze. Ogni qualvolta che siamo profondamente umiliati nel bisogno, nell'aiuto e in seguito siamo miracolosamente soccorsi, per noi è un motivo indimenticabile di gioia, una gioia tale che spesso ne partecipiamo ad altri che si trovano in difficoltà. L'umiliazione è la condizione per la quale noi facciamo l'esperienza di un Dio d'amore, di giustizia, di misericordia. Sì, è vero, Dio è tutto questo. Ma non lo è per noi fino a che non ne facciamo l'esperienza. L'umiliazione è il presupposto per conoscere Dio. E come dire che noi sappiamo che un uomo è generoso, ma lo conosciamo come tale? Solo quando ci troviamo in necessità e lui interviene a nostro favore. Ci sono aspetti del carattere di Dio di cui abbiamo una conoscenza esclusivamente intellettuale, ma alcuni di questi diventano nostri, calano nell'intero nostro essere per rivelazione solo quando ne facciamo uso, appropriandocene. Forse l'esempio più eclatante è Gesù Cristo quale Salvatore. Tutti sono a conoscenza che egli è venuto per salvare il mondo, ma solo chi accetta l'umiliazione si rende conto di essere un peccatore perduto, può farne l'esperienza e appropriarsene come personale salvatore. Questi allora sono alcuni aspetti dell'umiliazione. Rivela ciò che abbiamo nel cuore, ci fa essere coscienti della sovranità di Dio, ci fa del bene. In quest'ottica, ciò che per istinto cerchiamo di evitare diventa una ragione di lode. Umiliamoci dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli ci innalzi al tempo opportuno. 1 Pietro 5:6 luglio 2004 Ellero.